Adesso già esce bene già. Sì, ho visto. Allora mi risparmi niente. Subito mi ci pagherò 60 euro. Se non riuscivo a trovare il motivo, ma non sarà che il fenomeno. E invece era il commutatore d'antenna dell'accordatore. E quindi ne ho due commutatori, uno è normale e quello dell'accordatore. Che ha fatto? Adesso già funziona, va. Perché l'ho toccato, siccome stavo accendendo il sensimetro per contare le cifre, no? Almeno lo facevo vedere a Gianni. Cavolo! E non mi funzionava più nulla. Che succede? Io ho aggiustato quella cassa mia, quell'Alan, che c'ha anche il filtro, come quella tua, e sto usando quella lì, tu si intende i voci. È già un grido, Natalia, quella è buona a me. Io ce l'avevo in magazzino, ce l'avevo quella. E non sapevo, cioè no, l'ho trovata per caso, l'ho trovata nuova. Sì, anche la mia, perché non la uso mai, si può dire, l'ho attaccata a questo baracchino e almeno si sente bene. L'avevamo tempo fa, comprata da Fusaro, ma è stata mai usata, non è stata. Cavolo, per caso stavo cercando altra roba, non c'è questa cosa. Ho detto, no, quella me la porta a casa. Essa che mio padre l'ha comprata, era bulla messa lì, è nuova addirittura, con un coso ancora attaccando. E io no, l'avevo comprata da Colzo, da, non da Fusaro, da, dall'altro, quello della GBC. Chiappa, e io mi ricordo che quella lì l'aveva comprata a Fusaro, ed era sempre in magazzino. Sì, ma funzionano bene. Sì, sì. Funzionano bene, sì. Che sembra di un boccia. Te credo. Si aggascia della cosa. Della CTA. Dell'Alan questa qui, c'è scritto Alan. C'è scritto. Alan c'è scritto. Invece quella di Antonio che è uguale è della Midland. La matta si goza. La mia è Alan, c'è scritto Alan. E anche nella mia, allora ce l'abbiamo uguale. La mia è Midland, ma la matta si goza però. Poi c'è scritto noioso, filter e sotto c'è scritto on off. Anche da me, è uguale alla mia, è quella che hai tu già. Io l'avevo pigliata la GBC Ita. E a me mi... Oui. La mia è Anal. Anna vai tu. La mia è Anal. Ah, è un po' doloroso. No, solo Anal esiste, io guardo Anal. C'è voluto entrare prima, perché se vuoi entrare sono queste cose, se sei in multa. No, ma infatti mi sto di nuovo sentando, era giusto per dire la cazzata. Ciao, già sono qua. La mia Anal, cazzo, si sente molto bene già. Non frigge, non frigge. Già, freddo, bruttumi voi. Fate le immagini, questo Luca. Sempre qualcosa deve dire. Dimmi tu, cavolo. Ma vai tu, vira Anal, vira la gascia. È poco bomba. Sì, è un grido, io. Non ti stai a zaccarmi. Stai venendo a fare concorrenza a Falco. Che cosa? Oh Luca, dove l'hai comprata? Me la compro pure io, quella lì, Anal. Che quella dovrebbe pompare forte. Sì, a Sassari Vecchio, c'è un sexy shop, lì l'ha comprata. Sì, adesso vado. Sento vicino. Infatti c'era un telefono entrare. Perché ne c'è tutto il cosciminiato mi da voi? Bene, ma la puoi dare tu, intanto già lo sappiamo che sei gay. Ehi, passa che ti do la mia. Ah, già messa la canzone, Luca era gay. Che beh, gay, gay o gui? Non c'è adesso. Non è possibile. Vabbè, comunque è Grazioli, come dicono, il continente è Grazioli. Adesso mi fa schiattarmi. Liberato, Grazioli, la chiamano in continente. Compri la gara Grazioli, cazzo, ti fa schiattarmi. Sì, domani mi arriva a me, io l'avevo già ordinata. Però, come cosa costruttivo, boh. secondo me attualmente, ecco, c'è la Mantova e qualche altra antenna e boh, e poi c'è la Grazioli che è venuta dopo, se come cosa costruttivo è robustissima, è proprio non venne. Te credo, io ce l'ho la Mantova 5 anni, cazzo, tu lo vieni a fare annida anch'io, mamma mia, e poi a piazzare le nubi, non saranno. Se me la scendo io, me la piazzo io. Non ci crede? Andiamo in campagna e ne la faremo, aiuto. Ma sarà fradica, va. La cosa in chi vi nata l'aria, la salsedine ne sale. Se ti sto dicendo, la Mantova Turbo me l'avevo accesa 3 volte, a chi mi siede a 2 voci o si dada. La mia 27L non ha retto neanche una volta perché me ne è sceso il capo in terra, che mi si è ossidato il ruochettone di antenna. Non mi ne durava l'antenna in Chivi. E vai che se l'hai isolata bene non l'ha fatto assolutamente niente. Se gli hai messo il vulcanizzante dove dovevi metterlo e tutto, Marrano ce l'ha fatto un dai Sant'Enna. Ah, tu tranquillo che dove si attacca il piede lì c'era un ginito, era l'effetto della Mantova qui. Con la piastrina dove si attacca il piede c'era un ginito. Di tu. Basta fargli la nuova come me l'ha fatta la Fabrizio. Sì, in acciaio inossidabile vorrebbe, fatta a parte perché sarà tutta ossidata, va, quanto va varà, 14 anni aveva questa antenna, perché quando l'ho lasciata io, lì aveva 2 mesi quell'antenna, 2 mesi, contattimi, perché la 5, la Mantova 5 è quella lì, capito? Si tratterebbe di scenderne la integra senza romperla, capito? Se no è un peccato. Se tu nei radiali gli hai messo quello che devi metterli e sigillato bene, né gavi rugoso, né gavi, e non li fa assolutamente niente perché non entrerebbe mai, capito? Vasellina ci vuole. Mia, all'altro mio, tu pure la vasellina. Boh, è perché gliela promessa, sicuramente è fatta bene mi l'antenna. È che gli agenti esterni lì è un macello, nata l'aria da Romari, ma Rasuti, e tira brasigheggia. La Mantova Turbo 3 volte ne l'avevo scesa, perché mi si era ossidata, sempre lucidata, nuda, sempre mi ero vazia. Cazzo. La mia 27L non ce l'avevo lo stesso, perché io me ne farà drugare in terra di tutta l'azzurra. Si era crepato il bocchettone del PL, si era crepato e ne è sceso il capo in terra, l'RG8 era, o 213, ma non me la metto. No, a me non mi è mai capitato con la mia 27L, la verità, ne ho avuto 3 e è andato sempre tutto bene. La Mantova l'ho staccata io, grazie a Dio, l'ho staccata tutta integra, non è uscita per niente lo stilo. Appena e la basetta, l'ho passata appena appena ricata abrasiva e togli il PL vecchio, che c'è capo da 1, sigillato, io gli ho messo da 2. Capito? E l'avevo sciolta con 800 watt, la coppa è stata mia, perché altro. E i noghi della mia 27L, i noghi da belli addirittura, mi sei facciato un burro rubiele, tu dovevi vedere come ti ne ha giudicato, o se mi la rugavo tutto niente, lento, ce l'ho dovuto buttare quell'RG213, infatti. Mi sembra che avevo mandato il messaggio via WhatsApp a farvi vedere com'era il capo, cazzo. Sì, vabbè, comunque io già l'ho scesa integra la mia. Devo passare a carta abrasiva e ripiazzarcela, me la fa una bella. Domani mi metto la carta abrasiva alla mola e così la pulisco bene, poi dopodiché aspetto una giornata come si deve, che non ci sia vento né in temperie strane, salgo su e la ripiazzo. Io ho la G5RV, quella lunga, che ci sono anche gli 80 metri in campagna, Puccio, la X300, un'altra antenna a trombone VHF, una direttiva a 8 elementi VHF c'è, da voi cosa, dipoli vari, c'è anche il dipolo per la 27555, che quella era una bomba lo stesso, la vivativa, ma stessi, pari un Dardan, gli endiri di poli, a Laiburi. Sì, quando ne avrai voglia ci sarai dai a dire a abitare in campagna, cosa vuoi dire? Avanti a tu, riprenditela. Cappa, quando ne ha voglia si può salire e smontare tutto. E buca ne canto bene. Mantova e compagnia cantante. Si può fare. E poi... secondo me se chiusa bene non li fa nulla, se veramente gli è messo vulcanizzante e tutti dove ci sono gli stilemi, se si gira dove non entra Eva. E basta che salga su due, in questi giorni si prende una prolunga di capo e prova tutte le antenne, ebbene se funziona vuol dire che non c'hanno niente, quando vuole prova a scendere. Capito, d'estate, basta che due o tre persone bisogna essere di lì, perché ci ha messo un palo di un bel lungo e viene un pochino male a scenderlo, già a Salizio era un casino, mi ricordo. Ma secondo me è quella che c'ha Gianni la più azzeccata, quello è un vecchio progetto e non la prezzi che Gigussino, la Superlemma. La Superlemma già è buona, quella già dura come antenna, voglia. Quella è una buonissima, la verità. Avevo già tentato io a prendermela un po' di mesi fa. Poi aiuto, no, adesso sta con la matta, va bene in che condizioni è, se è in condizioni buone pulisco, la ripiazzo e così infatti faccio. Adesso come tale anche sto dando questa energy, questa mezz'onda, capito, tipo la per 27 L rimane, che mi ha regalato Gavino di Toro Torres, e dopodiché quella lì la tolgo, la conservo e la... poi appena passo il cavo per Giovanna la piazzo a posto dell'antenna VHF, la piazzo appena più giù, è due o tre metri più giù della mantova, così usa per anche lì che stava comprando, ti passo il cavo direttamente all'interno lo faccio partire da qui, lo faccio scendere direttamente dal tubo dell'antenna TV sua. E allora, già non si vede cosa che andava, già si può fare alla grande, almeno c'è l'antenna pure lì. E infatti, se non già ci vedi di cosa, mica ci vuole molto, trovare qualche villetta bifamiliare, facciamo un cambio con tutti e due gli appartamenti e il terreno. E così almeno installiamo le antenne direttamente in un'altra casa che fermo prima. Vabbè, Billy. Ebbè, avanti. Ebbè, Malone, Alessio Malone. Ebbè, uscia a porco, cazzo. Da quando fai il vigilante, cazzo, anche tu sei un prostituto, stai diventando, eh? Da notte, ne approfitti quando esci. E io devo arrotondare, mi metto la parrucca e esco la notte. E ti sale apre da dieta, quelle che ci sono di là, per carità. Però vicino al cimitero va di sua, va. Così aveva detto il giornale, che fanno la messa in piega lì. Ah no, so io via le Porto Torres non ci passo, io sono tutta un'altra zona. Ehi, ti pare che ci passo anch'io? Una volta ci passavo quando andavo a Pizzicotto, passavo da Pedaneta per arrivare prima a Coso, a Ripunti, per non passare la 131, perché ogni tanto verso la mezzanotte e un quarto, ne passavano circa da San Giorgio, che non venivano capito? Nulla, prendevano e partivano, non te ne fregava niente che si dovevano aspettare perché dovevo passare io. Tagliavano la strada e giravano o per Sassari o per Porto Torres. Ti parlo di 30 anni fa o ancora, quando avevo 20 anni, 18 o 20 anni. Siamo andati, non so chi c'era, eravamo in 3 o 4 in macchina, siamo andati con l'amico a prendere pellicola a queste troie in via del Ponte Dottore, si mettevano vicino al cimitero dove c'è il rifornitore. Cazzo, figlio io, cazzo, aspetta che mi prendo, mi ho messo questo mattarello in mezzo alle palle, come ha toccato questa qui, cazzo, si è scappata, se ne... Io già ho grido, già. Se tu hai fatto il coso, il pericolo pubblico, cazzo. Che risate da lì, cazzo. Ma se era stato chiesto che va che do di centro, ti avrebbe detto, oh che bello! Eia! Una voce c'è che il rifornitore di Giburiani, Manuè, ti ho sparato con la macchina 127, allora con l'antenna, sono tutte scappate una gura di pur sampata. Tutto lì era pieno, una malmaglia era lì, dietro al rifornitore si metteva, per carità, poi avevo con materassi, divani, Ci giammavano in chivi, tu vi. Una volta sono andato a mettere benzina, ero con la mia ragazza e con un'amica, stavo andando a ballare ad Alghero, siamo passati lì e stavo mettendo benzina. Tutto dall'altra parte, proprio verso via San Paolo, lì, con i fornitori, ci vanno a mettere benzina, che questa qua c'è tutto, la ditta fuori, era appoggiata al parabrezza, e la vicina mi ha detto, ma te ne fa? Lui a prima casa si divertiva a casa, aveva la casa di cassetto, perché se ti trova la casa ti sicurezza. Non lo sai come lo chiamava? Sì. Il puttan tour. Sì, io, prima ce n'era di più, prima ce n'erano di più, adesso un po' di meno. Ci sono sempre, però un po' di meno rispetto a tempo fa. Gesù, le risate. Io sono una vita che non ne vedo più, non so se ce ne sono ancora, ma prima stavano al cimitero, stavano dall'altra parte, da tutte le parti, per Daniela. Una volta Manuè, stavamo tornando a fare il servizio da Alghero con l'ambulanza e siamo passati lì a Predanida e vediamo questa macchina ferma, che c'era, quella la conosciamo la macchina, quella di chi è? Quella di Giuseppe, che stava caricando una, no? E domani è venuto in sede, ed era uno che faceva servizio ambulanza con lui, è venuto in sede e fa, una sigaretta ce l'hai già, ti dirà mandare a puttare, mi fa pila di sigarette, non mi dai, come hai da puttare? Ti abbiamo visto tutti i miei veriti, tutto l'equipaggio, ti abbiamo visto lui, caricata una. Cazzo di sfruttamento. Lo sai carina, Antu? Non facciamo nome, ma già lo so giocare. Chi su per avviare il DNA? Con due polacche a bordo. Ha distrutto la macchina con due polacche a bordo. Il solo chi si ha combinato? Lascia perdere. Io già non c'era bisogno che andavo di là, ce l'avevo attaccata a casa io. Sì, ma tu non ci andavi perché non ti funzionava. No, io sono andato perché a riscuotere i soldi, capito? A me mi ha fatto, io prendo 50, ma detto, io, a me mi ha detto del 120, gli ho detto, solo di acqua, gli ho detto, 2 litri, gli ho detto. Ma non è il finale, Antonio? Io gli ho detto così, di pagarmi l'acqua se no andava alla fontana, non se non si puliva l'aggeggio di là, gli ho detto, ti fai la doccia di là, tu e gli altri che ci sono sotto, gli ho detto. Ma chi erano quelli che ci avevano la terza gamba? No, io c'avevo il brasiliano, capito, non avevo niente, gente che c'aveva la terza gamba, grazie a Dio, brasiliano. se mi hai detto tu che non usa se non devo una e la terza gamba. Quella era la prima volta che, venuto, che sono andato a pittare, capito? Non solo io, no? anche là ha fregato anche un altro. Mi ha invitato la birra, cazzo, e quando sono arrivato in fondo, ho toccato ferro, sono stato una settimana che non uscivo dall'appartamento. Perché cosa ti ha fatto? No, perché, capito, appena spaventato, è giusto, no, la capelli lì. Volevo fare qualche gioco così. No, ma gli altri erano tutte donne. Ce n'era una, l'ultima che ha capitato lì era nigeriana. Andava a fregare come si chiama, i clienti alle brasiliane. Lo rivedeva, veniva a fare tutto, scendeva tutta nuda, con le tette fuori. Sembravano due boccioni di vino. È un casino questo rogo. Ti ringrazieremo cazzo non è così grazie. E ardia. E il conservatore Emanuele c'era di tutto c'era. Lì il conservatore Emanuele, via la Marmora, via San Donato, l'inizio. Tutte le conoscevo perché frequentavano a quel vecchietto che abita vicino alla lucciola, capito? Che faceva il muratore, cioè lavorava perlomeno per la mia padrona di casa, capito? Le conoscevo tutte. E ne approfittavi. Dai, però già ti sei divertito al corso, dai. Sì, il corso Vittorio Emanuele, sì, mi sono donato, la verità mi è capitato coso, quello che hanno ammazzato. La bombetta. A me, figurati. Bello. Era una rottura di balle, era quello. Mi ha installato l'entrata della macchina a cassa, ha preso me l'ha fregata. Ha giubilato e ha giubilato fuoco la moto. Dallo momento che ne ha preso è andato al mar e ha picchiato a un tipo, ha picchiato. Poi quello già, dopo due giorni, ho visto che si è armato di coltello e l'ha spanzato. No, sotto l'ha preso, ai testicoli. E prima lì e poi tutte le cose fuori e poi la pancia, mi è uscito tutto le cose fuori, in pratica aperto come l'agnello l'ha aperto, capito? E poi colato a terra. Poi la moglie aveva giurato vendetta, eccetera, eccetera, poi dopo due giorni l'ho vista bella tranquilla al circolo con la madre e dico, la bombetta. Cazzo non è rientrato, vedi un po' calcino, cazzo, poi passa mano. Luca. Se non vai a giocare di Falcone, boh. Allora, come va Luca, come va? Tutto gonfio sono. Sto lavorando ad Alghero. Alghero stai arrivando, ma stavi lavorando, sì. Oggi, vabbè, abbiamo saltato, abbiamo fatto altro, domani sono lì, domani e dopodomani. Vabbè, l'importante è lavorare e incassare voi a fusti vinte. Infatti, ritornato un attimino arrivo, c'ho un messaggio da ascoltare. Sì, capo. Il corso è un casino, tutto un macello, Però mi ha detto ci si dice, io quando ero là stavo bene, la verità, quando abitavo in quella zona. Sì, era un casino, però stavo bene, mi sono divertito parecchio. No, già era una zona tranquilla, la verità, c'erano solo sassarese e basta, a parte quelle le brasiliane che non rompevano le balle, tantomeno le negre, capito? Poi sono arrivati questi nigeriani che sono sbarcati con questi balconi, hanno incasinato tutto, capito? Spacciano droga, eccetera, eccetera, poi hai visto quel casino che c'è? Si hanno aperto il circolo, si è aperto la frutta e verdura, io non so chi gli abbia dato la licenza per aprire. Questo sindaco deve essere fuori di testa, deve essere. E quindi sono sempre lì a fare attori, ogni giorno. Io ho visto un po' di 6-7 mesi fa una cosa del genere. Capito? Aspetta un attimo il telefono. Ehi, attore, avanti, Gianni. E che mi rotti quel banco di là che ti rifurare una biancheria stesa, per carità. Io ho un amico che abitava lì, se l'è dovuto scappare perché dice che la moglie se ne aveva la roba, gli hanno rubato un paio di libri, nuovi. un giubbotto, c'è una roba che se ne voglia rubare. Di so. Sì, ma lì campa chi è più forte, è più forte. Ma non puoi stare tutta la vita battagliando, anche uno deve stare anche tranquillo in casa sua, non è che puoi stare sempre a far rete, se cose, non penso che piacciano qua a te, no. Lo so, sì. A me mi hanno sempre rispettato, perché se no li facevo i dispetti, se no io ero vendicativo, li facevo tanti dispetti. Ma se trovi quello tu, anche tu lo rispetti, perché ci fa rispettare anche lui. Secondo chi trovi, ci sono dei cazzi di quelli generali, ma non fisico, un cazzo ne ha messo di fada. Sì. Ma a me non me ne frega niente, a me se mi rompi le scatole, a me la mia famiglia, io è meglio che ti innandi. Dove sono io adesso so che ne arrivi uno mezzo fuori di testa, non nigeriano, italiano. Dove abiti tu? Dove c'ero io, dove abitavamo io e Sara prima. E come la zona tua non sei, se non è che c'è tranquilla e attiva. Ma chi ha mai bisticciato con nessuno? No. Fino adesso che sono ritornato non ho mai avuto parole. Ma poi io vado d'accordo con tutti, no? Non mi rego nessuno, no? Ah, tu una luce andai giù bloccato io, che a fare dico con questo di Bari, che ne abbiamo fatto una vicina alla tua. Ma lo ricordo io e tu non te lo ricordo. Sì, ma quando verrà tu verrà un casino, quando verrà moglie, quando tutti gli si, non vi sono più, va, c'è la pace, c'è. Non ci sono più, non ci abitiamo più. Era un freco, vabbè. Sempre uscita, da un anno all'altro, sempre uscita. Ah, guarda, tra Edo, che adesso l'altro, quell'altro fuori di testa che abitava qua, e non che tu vada alla base. Sì, ma poi avrà tu i kiwi. Forse, no, non lo vuole più la moglie. Ah, no. No, non sono proprio mandato. E chi sarà pazzo, chi ci sono l'accetta. Guarda, grazie a Dio qua è tornata la pace, da quando non vedo più visto, da quando non vedo più l'altro di fronte, buono buruviso, e non che torna dalla pace. Ma non ce n'è altri di gente vicino, non ce n'è gente che ti rompa le scatole, cose così. Ah, fin fine, sono andati dove dovrebbero stare certi personaggi. Tu vada a casa sua. Prima era via Roma, prima vai da San Bassi, vai a Bancali. E comunque prima già c'era un po' di attrito, io me lo ricordo che un po' di attrito vita, no? Ma vera sempre casino in occhio. E voi ve la sempre ieri, chissà la cantina giù che sempre in greffa, Ma male come, da voi sono passato a pure fuoco in un magazzino, di sotto ganno, catavala se vende grave. Di chissà di chi dell'ultimo piano la posso fuoco in un magazzino. E allora? Non comandi che non fece di passare di voi pure. È sotto di me. Appunto, dico, con l'incendio magari potrebbe colpire anche a voi. E poi anche voi ce l'avete a fianco. Cappa. Una volta ha fatto troppi casini, sono venuti anche a picchiarlo, ha Pepino arrecciato. Progaridale. Chi non fa da bravo nella vita, fa quella fine. La giustizia è fina, prima o poi ti bisticheggi. È sempre con l'accetti, è sempre con rigore, sempre minazzelle. Già te lo dico in verticale cosa ti ho combinato, la fin fine, poi ho finito. Interessante che tu sia in pace. Oh, adesso è tornata la faccia qua. Cavagava. Maria Antonia, tu sei che facciamo i nervi. Cos'è che fai? Tu sei che sei la mia pillola. E beh, quindi? Dica a piacere io. Tanto d'arrivi a te. Ma guardate, senti. Sì, ma forse ti compreso, cara. Vega che non ti conosci anche il buffonetto. E cosa vuoi va? Se rimane va tranquillo pure lui e rimane va qua. Molto tranquillamente. Purtroppo quando hai ti riprendi un culo, ma io dicevo sempre, ma calma, ti ma fini in nida. Così era un mio amico mio stesso. Un altro mio amico. Io qua, io là, alla fin fine ne ha finita buruendomi. Ne ha smesso pure lui di fare un macco. Chi è? Io. Tu sì. Sono io. Chi sì, che lo sei andato a cantare in questura. Ciao, ciao, non ti avevo riconosciuto. E beh, oggi. Forse è Antonio Bombolo. Io sto parlando con Antonio. Ascolta, tu stai arrivando a basso di segnale, come mai? Sei Santiago, sì. Un genio, come non mi senti? Sì, Eugenio, già non credo che arriva a Pozzondorra. Sì, ma io non conosco. Siamo in quattro, ciao Eugenio. E anche Pomponi. Aspetta che attacco il timbo da vedere, che se non vede non attacco. Attacca, attacca, attacca, attacca. Attacca, bro. E che avuto con che microfono, Antonio? Aspetta che sta commutando. In realtà lo rimane sempre microfoni strani, anche non ne mette mai le MC60, né così, ne mette microfoni normali. A me l'MC60 era il migliore. Ma lo so, l'MC60 stai usando. Era un migliore, Anzi. Aspetta. Hola. Guarda adesso 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alza il volume. Sì, ma chi viene il vestito? Beh, perché c'è il fuoco. Ora. Cosa da fare? Ora. Che segnalo? Vedo questo fuoco. Non sto facendo un cazzo. Boh, cosa mi danno questa volta? Il microfono, No, un canale, controlla, non stai uscendo di modulazione. Me ne sono accorto, infatti. Adesso sto uscendo, sto usando del 225. C'è il cavetto, quello, che deve essere qualche filo staccato. E ora sì. Il cavetto del che ho fatto dal cavo, dal coso, che è difettoso. Mi ha rubato una mattina. Così lo sistemo. Gli attacco un nuovo salerno. Maria, Gianni ci sei ancora. E te molle stue. Avanti bombolino. Kappa. E te che mi intendi da Pozzondorra, finalmente, prima c'avevo l'antenna sorda, adesso c'ho l'antenna aperta. Ma quando c'avevo la cosa nel balcone non mi sentivo. Chi è quello? Io già sto modulando col portatile adesso. E c'era stato Antonio qua. Cosa già? C'era stato tu, Antonio. Non lo so. Perché come sta arrivando? Adesso sono col 140. Non lo conosco, non l'ho sentito. È stato un portatile. E infatti gli ho detto, vai, aspettati, io non riesco a sentirti. Se quando ti sei tu non riesco a modulare, se ti sento e ci sopravvoluiamo. Poco fa è entrato da Porto Torre Antonio Girabba, stavo dicendo il soprannome, Antonio Sceriffo. Sceriffo, Kappa. E se l'ha riattaccato, ci ha messo l'antenna sul tetto, però non esce, arriva Santiago Trebu, deve essere c'è qualche problema, aiutatelo. Thank you. Lavora oggi? No, però, è lo futuro, no, non c'è niente. parte quando ti tocca, domani sicuramente. Allora domani fammi vedere, domani alle 4 del mattino ne una e poi ne una alle 3 del pomeriggio. Andava, se non ce n'è lavoro, non beato che ce l'hai qua. Se dici, so che si tende, non vuoi nulla. Guarda, io ci sono 33 anni dove sto lavorando io, oramai. Però male. Io sono andato a Fino, questo che ragazzi, non si dice. Altri tempi erano prima. Prima un po', diciamo, occasionale. Perché d'inverno studiavo e d'estate lavoravo lì. Ma non guidavo il camion? Vabbè, ancora le pratiche non ce le avevo. Poi a 20 anni mi sono preso, no, 19 anni che si portava per 19 anni mi sono preso le pratiche. Meglio così. Ho iniziato a fare il trattorista. Capito? Una vita che faccio travaglio. E che ci indicano, a intende? Sì, ma non basta, soprattutto non so che abbiamo. Ah, oui. Maria, Antonio, Alessio,